giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ad Aquileia il cardinale Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, per le celebrazioni del giubileo delle facoltà ecclesiastiche del Triveneto. Le indagini dei RIS sull'incidente mortale alla STM di Maniago, dove a marzo scorso il giovane Daniel Tafa rimase trafitto dalle schegge di un macchinario esploso. Cordenons riaperta regolarmente la piscina dell'Eurosporting, ieri la fuoriuscita di vapori di cloro per un errore di manutenzione. Una strategia nazionale contro l'obesità infantile la sollecita da Udine Coldiretti nel suo villaggio contadino. Scade la rata IRPEF per le imprese dal Friuli Venezia Giulia, lunedì il versamento di oltre 710 milioni. Standing ovation per il debutto triestino di Allegria del Cirque du Soleil, al Verdi la prima del Candide di Bernstein. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Il segretario di Stato del Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, sta partecipando ad Aquileia al giubileo delle facoltà ecclesiastiche del Triveneto. È in corso in Basilica la celebrazione eucaristica, ma al di là della solenne funzione c'è sullo sfondo la proposta di candidare Aquileia ad ospitare i possibili colloqui di pace tra Russia e Ucraina. Le facoltà ecclesiastiche del Triveneto per la prima volta riunite ad Aquileia per celebrare il giubileo, assieme ai vescovi del territorio e al cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede. Alcuni di loro ci dicono che è un'emozione perché Aquileia è un po' l'origine della nostra fede, come dare un senso di più a quello che celebriamo, un momento di speranza per camminare insieme in questo mondo che ne ha così bisogno. Aquileia è terra d'origine delle chiese di questa regione ecclesiastica, il luogo dove nel 91 fu concepita la facoltà teologica, che mette in rete 4 istituti teologici e 7 istituti superiori di scienze religiose in Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige e Veneto. Oggi ha oltre 1500 studenti e 325 docenti. I numeri di seminaristi sono ormai ridotti al lumicino, dice Don Maurizio Girolami, preside della Facoltà Teologica del Triveneto, ma aggiunge la possibilità che la Chiesa ha dato a chiunque di studiare teologia, quindi anche filosofia e morale, può essere di aiuto per tutte le comunità del territorio. Più cresce un popolo di credenti, forse non è la quantità che conta, ma la qualità di persone motivate, ci dice, che sanno pensare alla fede, più questo aiuterà quelle poche vocazioni al sacerdozio che ci sono non solo a essere fedeli al ministero ricevuto, ma anche a essere lievito nella nostra società, dove c'è tanta diversità e tanta fatica a capire quale direzione prendere nel cammino. L'associazione Mitteleuropa ha candidato Aquileia, simbolo di incontro tra Oriente e Occidente, ad ospitare i colloqui di pace tra Russia e Ucraina, proposta che sarà appoggiata da una mozione in consiglio regionale. Per Monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, arcivescovo di Gorizia, certamente Aquileia per la sua forza può essere sicuramente un segno di pace, poi essere concretamente un luogo, conclude, mi pare una proposta che non è molto fattibile proprio per la complessità della situazione odierna. Aquileia, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. I carabinieri del reparto investigazioni scientifiche di Parma partecipano all'indagine sulla morte di Daniel Tafa nello stabilimento STM di Maniago la notte del 25 marzo. Il RIS analizzerà i reperti raccolti nella fabbrica subito dopo l'incidente, in particolare le schegge del macchinario esploso, alcune delle quali avevano colpito il giovane operaio alla schiena. Il pubblico ministero lo ha comunicato agli indagati e alle parti offese, che avranno la possibilità di nominare i propri consulenti per queste che vengono ritenute operazioni irripetibili e saranno eseguite nella sezione biologica di Parma. I risultati saranno anche trasmessi alla Banca Nazionale dei Dati del DNA. Nel frattempo la Procura di Cordenone ha concesso una proroga ai 2 periti incaricati di esaminare il macchinario usato quella sera da Manuel Tafa. Avranno tempo fino al 20 ottobre per presentare le osservazioni sulla dinamica dell'incidente. Al momento, per la morte di Manuel Tafa, risultano indagate 5 persone, tra cui il titolare dell'azienda, il responsabile della sicurezza sul lavoro e l'azienda che ha fornito l'impianto. Ha regolarmente riaperto questa mattina la piscina dell'Eurosporting di Cordenons dopo le apprensioni e qualche brucio in gola provocati ieri pomeriggio dall'immissione errata di ipoclorito di sodio nell'impianto di depurazione. Già ieri sera era stata effettuata la bonifica del locale tecnico in cui si era sviluppata la breve reazione. La fila per entrare, i giochi dei bimbi con l'acqua, i tuffi, tutto è tornato alla normalità a Cordenons dopo lo spavento di ieri. A causa di un errore umano, di un manutentore, di una lite esterna, qualcosa è andato storto durante la disinfestazione delle acque mediante cloro con la sostanza che è entrata minimamente a contatto con l'acido solforico. Un'operazione di routine che non coinvolge la parte balneabile e che quindi può essere effettuata a piscina aperta. Nel pomeriggio di ieri c'erano oltre un centinaio di bagnanti alle 14.30 quando una nuve di vapori, favorita dalla brezza, ha raggiunto un gruppetto di persone. Sette, tra cui cinque bambini particolarmente sensibili alla sostanza, sono rimaste intossicate, riportando irritazioni alle vie respiratorie. I vigili del fuoco sono intervenuti subito con una squadra specializzata, così come è arrivato immediatamente il soccorso medico. Cinque degli intossicati sono stati trasportati in ospedale, quattro dei quali sono stati poi dimessi rapidamente. Un bagnino, incaricato della sorveglianza, è stato tenuto invece in stretta osservazione fino a sera, prima delle dimissioni, con 5 giorni di prognosi. Salvatore Arrico, assessore, comune di Cordenons. Tranquillizziamo tutti i cittadini, perché come si può vedere anche oggi la gente è ritornata, quindi l'emergenza di ieri è rientrata. Ringrazio la struttura per aver attivato subito dai primi minuti tutto il protocollo emergenziale e ringrazio in seconda battuta tutto il nucleo batteriologico chimico dei vigili del fuoco prontamente impiegati, nonché anche tutti gli operatori sanitari che prontamente sono intervenuti per dare l'assistenza a tutti coloro che ne avevano bisogno. La piscina, dopo le opportune verifiche dei tecnici, è stata riaperta già la sera di ieri per una festa con i valori di cloro nell'acqua perfettamente a norma. Cordenons, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Dei rappresentanti dell'associazione Luca Coscioni, dei radicali italiani con una delegazione della no profit Oikos, hanno visitato la casa circondariale di Udine. Dal comitato è stato apprezzato l'avanzamento dei lavori di ristrutturazione di diversi spazi. Rispetto alle condizioni sanitarie, però, la delegazione ha notato la difficoltà di accesso alle cure, oltre a ritardi diagnostici, carenze strutturali di personale, nonché l'impossibilità di garantire la continuità terapeutica in una situazione che in alcuni casi compromette la salute fisica e mentale dei detenuti in maniera seria. A questo quadro si aggiunge la quasi totale assenza di attività lavorative interne, che aggrava ulteriormente la marginalità delle persone recluse. È fissata per lunedì prossimo, 16 giugno, la scadenza del versamento di oltre 710 milioni di euro da parte delle imprese del Friuli Venezia Giulia per pagare l'80% delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di dipendenti e collaboratori che si aggirano sui 580 milioni. A questa cifra si aggiungono poi gli esborsi dovuti per IVA e IMU. Gli importi sono stati calcolati dall'Ufficio Studi dell'Associazione Artigiani e Piccole e Medie Imprese CGA di Mestre, che ha conteggiato anche i 360 milioni in pagamento nella data posticipata del 21 luglio per l'imposta sui redditi societari, l'IRES, e per l'IRAP, il tributo regionale sulle attività produttive. L'Italia si conferma sesta nella classifica dell'Unione Europea per pressione fiscale a fronte del 42% del PIL, dove la prima posizione è attribuita alla Danimarca con il 45% e l'ultima all'Irlanda con il 23. Stop ai distributori automatici nelle scuole pieni di cibi spazzatura, più cibo a chilometro zero nelle mense dei bambini, una strategia nazionale contro l'obesità infantile, un patto con le famiglie, un solido programma di educazione alimentare nelle classi. Sono i 5 punti del manifesto di Udine per l'educazione alimentare nelle scuole, promosso da Coldiretti in occasione dell'evento Cibo naturale, un patrimonio da difendere, organizzato al villaggio contadino nel capoluogo friulano. L'importanza di mangiare bene e sano, l'importanza di farlo già da bambini. Una classe di scuola con banchi di cartone è stata riprodotta sotto la loggia degli Onello con tanto di lavagna in occasione del villaggio Coldiretti di Udine. Una lezione sull'educazione alimentare che ha spiegato ai piccoli l'importanza del mangiare cibi non processati e in particolare frutta e verdura, meglio se di stagione. Tra i suggerimenti dati agli alunni, quello di limitare il consumo di merendine per loro. Al termine delle lezioni, infatti, panino, Particolarmente apprezzato, pare. Nella seconda giornata del Villaggio Coldiretti, sul palco di Piazza Libertà, si è parlato proprio di educazione alimentare anche con l'ex ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli e in prima fila l'attuale ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani, che ha raccontato di un cambio di percezione in Europa dopo che l'agricoltura era stata messa sotto accusa. Nel centro di Udine, in molti hanno sfidato il caldo per visitare i gazebo che propongono prodotti e pietanze da tutte le regioni d'Italia. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Proseguirà per tutta la giornata la raccolta alimentare organizzata dalla Croce Rossa del Friuli Venezia Giulia, che propone il dono di generi di prima necessità come riso, farina, olio, succhi di frutta, tonno, sughi pronti, alimenti per la prima infanzia e zucchero, legumi, latte, pasta, prodotti di igiene per la casa e la persona per la prima infanzia. L'iniziativa attiva fino alle 20 nei punti vendita che aderiscono e di supporto al 6% della popolazione regionale che vive in condizioni di povertà assoluta. Sostiene il missionario delle Valli del Natisone fratello Dario Laurenci, attivo in Kenya, e di suor Laura Gemignani, impegnata in Etiopia e Sudan, il vino della solidarietà che è stato donato da una ventina di aziende vitivinicole che sarà venduto oggi e domani a Nimis, nella cantina I Comelli, dalle 18, accanto ad assaggi multietnici e ad esibizioni musicali. 12:41, uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo sereno su tutto il Friuli Venezia Giulia, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 26 gradi, a Gorizia 30 e 5 decimi, a Udine 29, a Pordenone 28, nell'area montana a Tolmezzo 26 e 5, a Tarvisio 23 e 5, a Sappada e sul Piancavallo 23, a Forni di Sopra 25, in quota sullo Zoncolan 21 gradi e 5 decimi, sul Lussari 21. Sulla costa Lignano 28,5, a Grado 27,5. Le previsioni a cura dell'Agenzia regionale di protezione ambientale per le prossime ore: in pianure sulla costa cielo in prevalenza sereno, sui monti poco nuvoloso, temporaneamente variabile, specie sulla fascia occidentale al confine con il Veneto, venti a regime di brezza. Gli spettacoli: ieri sera a Trieste il debutto di Allegria, atteso spettacolo del Cirque du Soleil che resterà quasi un mese in città. Sentiamo come è stato accolto. Incredibile, non mi sembra vero, è questo il tono del vociare all'uscita dal grande tendone del Cirque du Soleil dopo 2 ore di Allegria, lo spettacolo che ha debuttato ieri sera a Trieste in Porto Vecchio, tutti occupati, 2400 posti in platea, la Trieste bene, in gran spolvero, politici, rappresentanti delle istituzioni, professori, forze dell'ordine, ma anche tante famiglie con bambini e turisti da tutta Italia e da decine di paesi esteri. Sul palco 2 ore di musica dal vivo con bandoneon, violoncello, percussioni, canto, accompagnano trapezisti, equilibristi, clown, artisti del fuoco e della neve, in un omaggio anche allo Slava Snow Show. Contorsioni, acrobazie sui tappeti elastici, libellule, angeli e demoni in lotta tra loro. Sotto il tendone, alto come un palazzo di 6 piani, c'è posto per tutto, tranne che per la mediocrità. Impeccabile anche l'organizzazione, nessuna coda per entrare, grande professionalità delle maestranze e attenzione alla sicurezza. Sono previste 40 repliche fino al 13 luglio, i biglietti da 60 a 180 euro, già venduti 40.000, e così questo è lo spettacolo dei record, il più visto di sempre in Friuli Venezia Giulia. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Candide di Leonard Bernstein è l'ultimo titolo della stagione del Teatro Verdi di Trieste. L'opera, tratta dal romanzo filosofico di Voltaire, ha debuttato ieri sera con pieno successo e verrà replicata fino a domenica 22. Un musical della Broadway degli anni d'oro, arricchito dagli elementi della tradizione classica da uno dei più grandi direttori del Novecento. È il Candide di Leonard Bernstein che chiude la stagione del Verdi di Trieste. Dal musical classico ci sono le grandi melodie, i ritmi di danza, le esplosività delle percussioni. Dal linguaggio dell'opera tradizionale, la raffinatezza della strumentazione e il modo di trattare il canto. L'esempio più evidente nella parte di Cunegonda, protagonista femminile, alle prese in particolare con una complicatissima aria tutta volate ed acuti, resa in maniera ottimale ieri sera da Tetiana Schuravel. Tutto il cast vocale del resto si è dimostrato all'altezza del compito, con una segnalazione di merito speciale per David Astorga, che ha superato brillantemente un accesso di tosse provocato a quanto pare dai baffi di scena che lo aveva costretto ad interrompere la recita, e per Enrico Casari, dotato del bel timbro necessario ad interpretare le arie melodiche della parte del protagonista. Perfettamente a suo agio sul palco il coro del Verdi, chiamato a movimenti scenici da chorus line, ma soprattutto a risolvere le complicazioni ritmiche di cui Bernstein dissemina la partitura. Ebbene l'orchestra, energica, scattante e precisa sotto la guida di Kevin Rhodes. Scenografia sostanzialmente fissa, quella disegnata da Mauro Tinti per la regia di Renato Zanella, con i diversi luoghi in cui si svolge la vicenda, suggeriti dalle luci e soprattutto dai costumi di Danilo Coppola. Recita completamente in lingua inglese con i sovratitoli e spettacolo che scorre e diverte fino alla conclusione filosofica, con il richiamo alla necessità di un impegno quotidiano per cambiare la realtà, contenuto nell'invito di Voltaire a coltivare il proprio giardino. Trieste, Andrea Bardani, GTGR Friuli Venezia Giulia. A Malborghetto Valbruna si è aperto il Festival Risonanze, che proseguirà fino al 22 giugno. Spiccano in questa prima giornata la residenza artistica della formazione da camera Red Dot Baroque di Singapore, con le prove aperte a Palazzo Veneziano anche nel pomeriggio dalle 15. L'ensemble alle 18 suonerà all'inaugurazione della mostra di strumenti del liutaio Giobatta Morassi, e a mezzanotte poi ci sarà il concerto del violoncellista Massimo Raccanelli Zabor. Anche questi appuntamenti a Palazzo Veneziano. Torniamo a Trieste per le iniziative del Bloomsday, l'anniversario joyciano amatissimo in città. C'è un programma molto articolato per celebrarlo. Il Bloomsday, all'insegna del numero 16, sedicesima edizione della celebrazione di Joyce e degli eventi che ricadono nella giornata del 16 giugno, con filo conduttore gli eventi del sedicesimo capitolo dell'Ulisse. A spiegare il capitolo ad un folto pubblico, Laura Pelaschiar, curatrice del Museo Joyce. È un episodio molto particolare, in quanto è la prima parte del libro che si intitola Ritorno a casa, Nostos, e a narrare quel poco che succede è una stranissima voce narrante che non si capisce chi sia, che è onnisciente e sa tutto. Quindi questo è un po' il grande mistero, anche il grande fascino di questo specifico episodio. La seconda giornata del Bloomsday triestino è partita con la colazione immersiva, la messa in scena del quarto capitolo dell'Ulisse intitolato Calipso, nel libero adattamento del gruppo teatrale Amici di San Giovanni dell'Armonia. Riccardo Cepac, direttore artistico del Bloomsday. Tra le novità oggi segnalo il concerto delle musiche di Antonio Smareglia, che era un compositore nato a Pola ma triestino di adozione, che era di Rimpettaio, amico di Joyce quando abitavano in Barriera Vecchia. L'associazione sbarigliana di Pola offre appunto questo concerto, che è già stato a Dublino al Blooms dello scorso anno. Appuntamento con il concerto alle 16 al Verdi. Pigmenti e le parabole invece il titolo della mostra dell'artista visiva croata Tea Juricic. Acquerello e china raccontano il vagabondare joyciano al museo Letz. La mostra sarà visitabile fino al 15 settembre. È preso d'assalto invece il book market straordinario per il Bloomsday, la vendita di libri usati provenienti dai depositi della biblioteca Ortis, che a breve saranno rinnovati. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Oggi e domani le giornate europee dell'archeologia. Per l'occasione a Pordenone sarà aperto il museo archeologico, dopo quella di stamani apertura anche pomeridiana dalle 15 alle 19, mentre a Trieste gli archeologi della soprintendenza condurranno un percorso itinerante sulla linea di costa della colonia di Tergeste in età romana. Ritrovo al Teatro Romano alle 15.30 alle 17.30. Ad Aquileia viene illustrata la lavorazione del vetro con un forno romano nei cantieri di scavo, e nel pomeriggio sono previste visite guidate ogni 30 minuti alla casa di Gian Domenico Bertoli, padre della ricerca archeologica ad Aquileia. Giornata di consegna diplomi per la Cross Border Film School, scuola transfrontaliera dedicata alla formazione cinematografica di Gorizia. L'iniziativa ha proposto a 15 partecipanti, selezionati da Italia, Slovenia, Croazia, Ungheria, Austria, Serbia, Inghilterra e Portogallo, un'annualità formativa concentrata su sceneggiatura, produzione e regia cinematografica, con approfondimenti su distribuzione, finanziamento e presentazione nei mercati internazionali. Appuntamento nella sede di Borgo Borgo Cinema in via Rastello alle 17.15. Primo weekend per Cinebike, il festival di cinema all'aperto da vivere in bicicletta. Primo film in proiezione all'Arena Bike Inn di Palmanova in Piazza Grande alle 21 è La storia di Suleiman, vicenda di immigrazione dalla Guinea a Parigi e il lavoro come rider. Introduzione del sociologo Nicola Conda Matteo, già rider professionista. E domani, dopo il giornale radio delle 8.30, su queste frequenze andrà in onda Vita nei Campi, rubrica della nostra redazione dedicata al mondo dell'agricoltura. Ecco la scaletta della nuova puntata. Vita nei Campi, settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, in onda la domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura si parla del rapporto fra settore primario ed energia. Quali scenari se cadessero i limiti al fotovoltaico su terreni agricoli? A seguire, la ricetta segreta e dimenticata dei Jalins, strategie per difendersi dei nuovi fitofagi in arrivo dall'Africa, l'addomesticamento della vite nella storia e ancora l'uso del legno alternativo alle botti, la microossigenazione, alla scoperta della Valalba, gioiello delle montagne friulane. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsione del tempo e il proverbio friulano della settimana. Appuntamento a domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Questa edizione del GR è stata realizzata da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Walter Vidonis e Pasquale Nocera, collaborato in redazione Laura Sarasini. 12.51, prossima edizione alle 14.30. Grazie per il vostro ascolto, buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.